amici noi infaticabili. Sento che la vita non mi basterà mai per vivere questi attimi. Dentro ai nostri cuori sempre giovane l'età, ma il tempo mette in gioco nuove sfide. Accendiamo un bel fuoco, catalizza energie, senti che odore.